non li ritrovo più. Non apro gli occhi per chiamarti indietro e rivedere la mia fantasia. Spirito libero, sto contento quando mi parli dentro. Libero, spirito, sto contento quando mi balli dentro. Il mondo è storto e aspetta in coda, appeso a un semaforo. Provo a montarlo con un sorriso, è solo gioco che so. Il mondo è un cannibale. Spirito libero, sto contento quando mi parli dentro. Libero, spirito, sto contento quando mi parli dentro. Se la scintilla e scatena l'intensità, bello libero sei il genio della lampada. Cambia la rabbia dal mio corpo quando ci sei, che ogni problema è un labirinto fantastico. Col morto e ruba la fantasia. Cosa montarlo con un sorriso, è solo gioco che so. Il mondo è un cannibale. Uae, uae, uae, uae. Libero, sto contento quando mi balli dentro. Libero, spirito, sto contento quando mi parli dentro. Se la scintilla che scatena l'intensità, fratello libero sei il genio della lampada. Cambia la rabbia dal mio corpo quando ci sei, e ogni problema è un labirinto fantastico. Spirito, è solo gioco che so, solo gioco che so, solo gioco che so. Tutto gioco che so.